più sordo. Le frasi fatte ripetute dai palchi negano il passato e consegnano al presente tutto quello che chiede. Ma alla fine il risultato è un orrore e non penso ne valesse la pena. In fondo hanno vinto i cattivi, cioè i buoni. Pretende più.